spalle, ma nessuno è dietro me. Mi fermo un po' e mi chiedo se sei felice. Certo lo so, è scontato, così si dice. Ho un biglietto chiuso nella tasca, mi alzo e bevo il mio caffè. Faccio un passo avanti verso la frontiera e un altro in più per te. Riprendo un po', sono stanco ma non importa. Mi fermerò solo al varco della tua porta e aspetterò che il silenzio tu mi risponda. Mi siederò finché il gelo non mi nasconda, poi dormirò, ma solo un po'. Ogni giorno invano sulle scarpe rotte avevo cercato Dio. Ogni aguzza pietra, non sapendo il nome, avrò imprecato il tuo. Mi fermo qua al rifugio della speranza. Mi fermo già, sempre ammesso ci sia una strada.